Voi vedete che qui non c'è, non ci sono frasi del tipo sono stati cattivi questi, quegli altri, hanno fatto male, hanno rubacchiato, perché la tendenza tende sempre a buttare tutto sul basso moralismo. Il problema è molto più radicale in fondo, perché o noi capiamo che queste tre separazioni sono all'origine dei nostri mali, o altrimenti non lo credo. Potremmo mettere delle pezze, potremmo mettere dei correttivi che potranno durare lo spazio di un mattino e poi dopo si ritorna, come qualcuno già sta dicendo, eccetera, eccetera. Allora, voi vedete che a questo punto si pone la domanda, che fare? Se le cose stanno così, se questa crisi assieme agli altri paradossi sono il sintomo di una perdita di senso, cioè di orientamento, di direzione, cosa bisogna fare? Ovviamente a questo punto ci sono risposte diverse. Quella che dalla enciclica Caritas et Veritate, la risposta che viene è legata alla declinazione di tre parole chiave che ricorrono frequentemente nel testo, e cioè la parola chiave fraternità, libertà e bene comune. Il titolo del capitolo terzo reca in cima fraternità, sviluppo, ed è la prima volta. In nessun'altra enciclica questo era accaduto. In altre encicliche si parlava sempre di solidarietà. La parola fraternità ovviamente ricorreva, ma qui si sta parlando del principio di fraternità. E cosa vuol dire? Vuol dire che la sfida che questa enciclica pone agli intellettuali in primis e agli operatori, agli imprenditori, questa è l'enciclica che è diretta in primis al mondo delle imprese. Il mondo dell'impresa viene citato, imprese, imprenditore, di un titolo 52 volte, vorrei che qualcuno lo notasse, no? Non vuol dire che vengono trascurati i sindacati, di cui pure ci sono due, tre paragrafi interessanti, però è al mondo dell'impresa. E cioè la sfida che viene lanciata è quella di tradurre dentro il mondo dell'economia il principio di fraternità. Alcune all'inizio, cioè 3-4 mesi fa, appena uscita, hanno ridacchiato, adesso meglio, perché pensavano che fosse una mutanda di scopo, la fraternità dentro il mondo dell'impresa. Ma quando mai? La fraternità si applica dentro la famiglia, e infatti tra membri della stessa famiglia, quali sono i rapporti tra padre, figli, moglie, marito, fratelli, sorelle? Che tipi di rapporti sono? Sono rapporti di fraternità, giusto? Uno dice, oh, lì sì. Oppure dentro un gruppo, un club, un'associazione, lì sì, ma perché mai, come si farà mai ad applicare il principio di fraternità dentro l'impresa, dentro il mercato, nei rapporti tra imprese che operano nel mercato? Questa è pura utopia. E invece questo è il motivo per cui queste enciclica, per la prima volta in assoluto, ricorrono espressioni che il Papa usa per indicare che non si tratta di utopia, ma di qualcosa che già avviene anche se in piccolo scala, e cioè fa riferimento alle imprese cooperative, alla cooperazione di credito, all'economia di comunione e ad altre forme imprenditoriali, chiamate le imprese sociali, se qualcuno preferisce questo termine, che evidentemente applicano con vario grado di riuscita il principio di fraternità dentro le relazioni economiche. E come si chiama il principio di fraternità quando viene declinato in termini economici? Si chiama principio di reciprocità. Quella parola reciprocità che sta prepotentemente ritornando di moda dopo secoli di oblio, dopo che fino alla metà del Settecento invece era il canone di riferimento nell'agire economico. E voi sapete che questo soprattutto è avvenuto nel sud Italia. Napoli è stata la cittadella di questa forma che, come anche nella stessa enciclica viene citata, che si chiama dell'economia civile. Perché io non perderò mai di ricordare che la prima cattedra al mondo, cattedra universitaria al mondo di economia, la istituisce la Federico II di Napoli. Non la istituiscono gli scozzesi, non la istituiscono gli inglesi, gli americani erano ancora in civile. Allora, cioè i civili nel senso che non erano ancora arrivati, l'economia in America inizia nel 1885, lo sapevate? La prima cattedra di economia in America viene fondata nel 1885 dopo la convention di Saratoga, e lo sapete queste cose, 1885 vuol dire ieri l'altro, Napoli 1753 e la cattedra di Napoli si chiamava di economia civile e Antonio Genovesi è stato il primo cattedratico il cui libro di testo si chiamerà alcuni anni dopo Lezioni di economia civile. L'economia civile è tutta qui, che fa proprio il principio di reciprocità, lo declina in modo tale da immetterlo nel tessuto quotidiano delle relazioni economiche e via discorrendo. Ecco allora che il riferimento della civica alle cooperative, credito, cooperativo di credito, di consumo, economia di comunione, imprese sociali, ha questo significato, quello di dire, vedete, che non si dica che non è possibile tradurre in pratica il principio di reciprocità in economia, perché ci sono queste, che saranno minoritarie, è vero, però un conto è dire che sono poche, ma se sono ancora una minoranza profetica, chiediamoci piuttosto se le istituzioni economiche, le leggi che i vari parlamenti, compresi il nostro, fanno, operano per aiutarle a crescere oppure a impedire. La risposta è la seconda: in Italia si fa di tutto con le leggi nazionali e regionali per impedire la crescita di questi soggetti. Io sono pronto ad accettare qualsiasi sfida, perché come voi sapete da 3 anni, ma anche da prima, faccio il presidente dell'Agenzia Nazionale per il Terzo Settore e ne vedo di cotte e crude. Si fa di tutto per tarpare le ali a questi soggetti, perché non si vuole tradurre in pratica in economia il principio di reciprocità. Ecco allora perché la fraternità in questa enciclica gioca un ruolo così importante. L'enciclica dice la fraternità non va solo però per le cooperative di credito, deve entrare in tutte le imprese, quelle che chiamiamo di tipo capitalistico, o imprese di capitali, che è la stessa cosa, o imprese for profit, perché deve diventare il modo comune e normale di fare attività di impresa. E voi sapete che il principio di fraternità è un principio che evidentemente ha la sua connotazione profonda nella dottrina sociale della Chiesa, a partire almeno dai padri della Chiesa. Voi leggete il Basilio da Cesarea e capite sul vescovo di Cesarea del IV secolo e capite subito quante siano profonde queste radici, per non parlare poi del fatto che la loro fraternità era anche nella bandiera della Rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité. Poi dopo i rivoluzionari francesi l'hanno cancellata, quando il ministro dell'interno, Saint-Juste, 4 anni dopo la fine della rivoluzione, emanò il decreto che impose di non usare più la parola fraternità, ma la storia sappiamo come mai, eccetera, eccetera. La seconda parola chiave è la parola libertà. Ora, libertà è una delle parole più usate, a volte abusate, eccetera. Il Papa cosa dice in questa enciclica? Guardate che la libertà ha 2 dimensioni che il Novecento giustamente ha enfatizzato e ci ha, come dire, donato: la libertà da e la libertà di, la libertà positiva e la libertà negativa. La libertà da è la libertà in senso negativo, per usare l'espressione di Isaiah Berlin, questo famoso filosofo di Oxford, scomparso alcuni anni fa, e cioè la libertà dalla costrizione, la libertà da catene di vario tipo, materiali, spirituali, benissimo, tutti vogliamo la libertà da. Poi c'è la libertà di, che è la libertà positiva. Cosa vuol dire la libertà di? È la libertà di realizzare il proprio piano di vita o la propria vocazione. E questo pure è ovvio. Il Novecento ha fatto grandi passi sul piano della libertà di. Non basta essere liberi da vincoli, bisogna avere anche la possibilità reale di realizzare il proprio piano di vita. Giusto? Se io ti porto in un supermercato, tu hai fame, e dico, beh, scegli quello che vuoi, hai la libertà di scelta. Se però intanto non hai soldi, quando arrivi alla cassa ti fanno riportare indietro tutto. Allora, in questo caso hai avuto la libertà da, ma non hai avuto la libertà di. Che vuol dire? Basta parlare di libertà di scelta. Bisogna anche parlare di libertà di poter scegliere, che è una cosa diversa. Io posso avere la libertà di scelta, ma non la libertà di poter scegliere. E però Papa dice c'è una terza dimensione della libertà che quasi mai viene evocata e tematizzata, e cioè la libertà per,